prima che la notte scenda sopra i miei occhi ed il mio falò, prima che lei mi sorprenda, io con la mia barca io mi salverò. Disse il pescatore al vento in uno schianto di sincerità, senza indugio, senza dubbio, senza alcuna perplessità, senza indugio, senza dubbio, senza alcuna perplessità. Ora in un batter d'ali un uccellino gli si avvicinò, era un passerotto rosso e sulla spalla gli si posò. Gli disse: il tuo parlare, uomo, non è da uomini ma da uccello, che infatti parlerebbe al vento come se fosse suo fratello, che infatti parlerebbe al vento come se fosse suo fratello. E una smagliante stella si vide dal cielo arrivare, illuminò tutte le onde, illuminò tutto il mare, i pesci, le conchiglie, anche il sole, a bocca aperta ad ammirare il miracolo del pescatore che cominciava piano piano a salire. Fischiettava le canzoni sulla sua barca come un usignolo, il passero da intenditore fece il suo nido sopra il suo schermo. Vennero da tutti i mari, da tutti i monti, dagli altopiani, a godersi quel concerto ed applaudivano con le mani. Ed allora in un baleno il pescatore si trasformò, lui che aveva sempre voluto come Francesco sgranchirsi un po'. Non rimase neanche l'ombra, neanche una briciola del suo essere uomo. E come un incanto magico lui prese il volo nel cielo chiaro. Nessuno lo vide pescare sul lungo mare alle piccole ore. C'è chi dice è morto nel nulla, altri è resuscitato, è una storia bella. Ma se vai sulla costa del cielo, proprio al confine tra la sera e il mattino, lo troverai sulla sua barca a cantare tra gli uccelli, tutti i raggi del sole, lo troverai sulla sua barca a cantare tra gli uccelli, tutti i raggi del sole. È una smagliante stella, si vide giù dal cielo arrivare, illuminò tutte le onde, illuminò tutto il mare, i pesci, le conchiglie, anche il sole, a bocca aperta ad ammirare il miracolo del pescatore che cominciava piano piano a salire. Fischiettava le canzoni sulla sua barca come un usignolo, il passero da intenditore fece il suo nido sopra il suo seno. Vennero da tutti i mari,